Si è svolto questa mattina a Roma davanti al Parlamento il sit-in di protesta dal titolo dell'indifferenza e dell'inganno organizzato dalle associazioni di volontariato che assistono i carcerati. Il sit-in è stato promosso dalla Consulta Penitenziaria del Comune di Roma e sostenuto da diverse associazioni. Ne parliamo con Lillo Di Mauro, che è il presidente della Consulta Penitenziaria del Comune di Roma, al quale chiedo subito perché un sit-in di protesta da parte del mondo del volontariato e della società civile e perché il titolo dell'indifferenza e dell'inganno. Noi non abbiamo fatto questo sit-in per rivendicare qualcosa che riguarda il volontariato. Noi questo sit-in l'abbiamo fatto perché volontari non sopportiamo più quotidianamente di affrontare problemi di una drammaticità che ci manda a casa col cuore spaccato, perché quando incontriamo appunto persone malate dentro il carcere, quando incontriamo persone che hanno mille problemi, che non vedono le famiglie da anni, ma come si può tornare a casa? E noi tutto questo non lo possiamo tollerare, il volontariato non può tollerare questo, il volontariato nasce proprio per essere vicino ai più deboli e in questo momento i detenuti sono l'anello più debole della società. Quali sono i punti più urgenti che avete portato all'attenzione del Parlamento e della Commissione Giustizia? I punti sono questi: innanzitutto una ricapitalizzazione del sistema sanitario, e con questo intendiamo che vengano previsti fondi per tutelare la salute, per tutelare le attività di recupero dei detenuti, l'inserimento esterno dei detenuti. Abbiamo promosso questo sit-in perché vengano applicati i principi della legge Gozzini, perché venga applicata la legge 230 che è il riordino della medicina penitenziaria, perché venga applicata la legge sulle madri con i bambini da 0 a 3 anni, perché venga differenziato il trattamento e quindi significa dare un altro tipo di pena ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, di tubercolosi, di cancro, i malati terminali, eccetera, eccetera. La situazione delle carceri italiane è andata peggiorando in questi ultimi anni. Voi avete messo in evidenza alcuni dei punti più urgenti, li avete riportati all'attenzione della Commissione Giustizia. Quali sono state le proposte che avete avanzato e quali le risposte che avete ricevuto? Insomma, come è andato questo incontro? Cosa abbiamo detto in Commissione? Abbiamo portato anche dei casi specifici, un ragazzo detenuto senza braccia soltanto per 4 mesi e che noi con il nostro impegno abbiamo tirato fuori, malati di tutti i generi che non ricevono le cure appropriate e non perché qualche direttore ci ha velleità, insomma, da sadico, ma perché non ci sono i fondi, perché questo governo invece, a fronte dell'incremento della popolazione detenuta, perché è aumentata di 5.000 unità da quando c'è il governo Berlusconi, diminuisce i fondi che già c'erano per i 52.000, oggi sono 56.000, ebbene diminuisce questi fondi, il che significa che per curarsi un detenuto deve usare i propri soldi e se non ne ha non si cura. Questo è il problema più grave che c'è nelle carceri. A tutte queste nostre proposte, i presenti, il presidente Buemi, il vicepresidente Carboni, che sono appunto comunque della minoranza, no, rispetto al Parlamento, hanno detto che si impegneranno con tutte le loro forze, ma ci hanno anche detto è significativo che oggi qui i membri della maggioranza non ci siano, questo appunto significa che a loro dei problemi dei detenuti non gli interessa assolutamente, infatti erano tutti in aula impegnati a fare appunto questo salva Previti che dovrebbe far indignare il nostro paese. Abbiamo parlato di richieste che voi avete avanzato nei confronti del governo e ci sono invece delle iniziative che riguardano invece il locale, i comuni, le regioni, le province che possono dare già una qualche risposta alle situazioni delle carceri e carcerati. Noi a Roma come Consulta abbiamo promosso 2 anni fa la istituzione del piano permanente sul carcere, che al di là delle competenze consente a tutti, Ministero della Giustizia, enti locali, in questo caso comune, provincia, regione, ASL, eccetera, eccetera, per propria competenza di intervenire in carcere, proprio per far fronte a questa emergenza. Questo piano è nato dopo che il Consiglio Comunale si è riunito a Rebibbia per eleggere il carcere a Roma come 20° municipio, quindi una parte della città i cui cittadini devono avere tutte le prestazioni che si danno ai cittadini liberi. Quindi queste cose si possono fare, un intervento dell'ente locale è assolutamente necessario. Le regioni, se con la riforma del titolo quinto, possono benissimo legiferare sulla competenza della sanità. La regione toscana questo lo ha già fatto, sono intervenuti con una propria legge sul riordino della medicina penitenziaria e quindi le ASL toscane oggi intervengono, anche se la legge nazionale non è stata applicata, intervengono in questo senso.